Capitolo 11. «Lascia parlare me», ha detto Natalia. Così Bogdanov si è messo zitto, seduto alla scrivania, e ha osservato Danny entrare nello studio, accomodarsi di fronte a loro e restare composta in attesa delle loro domande. «Le analisi che ti abbiamo fatto», attacca Natalia in piedi accanto al tavolo, «indicano che soffri di una malattia rara, forse una forma di tubercolosi mai vista prima». Il tono è fermo, niente affatto accondiscendente. Quello che ci si aspetta da una capo infermiera abituata a trattare i malati con il massimo senso pratico. La ragazza non batte ciglio. «La buona notizia», riprende Natalia, «è che non sembra essere contagiosa. Però non sappiamo nulla del suo decorso e dei rischi che potrebbe avere per la tua salute». Ancora una pausa. Nessuna reazione. «Noi vogliamo aiutarti, ma per farlo abbiamo bisogno che tu ci dica tutto. Senza reticenze». Danny mette un broncio da bambina indifesa. «Dobbiamo sapere se ti capita spesso di avere dei mancamenti», prosegue Natalia, «o se hai altri sintomi. Devi dirci come si chiamava tua madre, dove sei cresciuta di preciso, in quale istituto, in quale città. Dovremmo fare delle indagini, scoprire se nel posto da cui provieni ci sono persone con la tua stessa malattia». La voce si addolcisce. «Ti aiuteremo a rintracciare tuo padre. Se è vivo, potrebbe avere la stessa infezione. Di solito questi batteri si trasmettono in famiglia». Attende che le parole facciano effetto, poi aggiunge: «Finora ci hai detto troppo poco, ma ogni informazione potrebbe essere preziosa, capisci?» Natalia termina la sua tirata. Bogdanov ha promesso di non parlare. Danny si guarda le mani, raccolte in grembo. «Siete voi che non capite», dice alla fine. «Non potete». Bogdanov cerca di attirare l'attenzione della moglie, ma Natalia lo ignora a bella posta. «Allora dovresti spiegarcelo tu come stanno le cose», dice, rivolta alla ragazza. Lei intreccia le dita, con movimenti nervosi, le scioglie e le riallaccia, come per allentare la tensione. «Sarebbe bello non mentire mai, non averne bisogno», dice, trasognata. «Voi siete molto gentili, ma io lo so che non siete tutti così. Non esiste un mondo dove tutti sono gentili, perché la testa delle persone non cambia nello stesso modo. Come stanno insieme, come pensano a se stesse, agli altri, a quello che le circonda. Si inizia e ci sono sempre ostacoli, difficoltà che fanno tornare il passato, la violenza, il... cerca la parola... fratellicidio. Una rivoluzione non basta. Ce ne vogliono 100. Natalia fa per intervenire, ma questa volta Bogdanov la zittisce con una mano, prima che apra bocca. Che ne sia consapevole o no, Danny sta parlando di lui. «Sono venuta qui per sapere». La danza di dita si interrompe. «Ma la missione è fallita e adesso sono sola». Le lacrime collano giù per le gote bianche. Lei non le trattiene. Lascia che gocciolino sulla vestaglia. Non singhiozza né ansima. Piange con calma, come rassegnata. Bogdanov le porge un fazzoletto che lei accetta, ma solo per tenerlo stretto nel pugno. «Non sei sola», le dice. «Noi siamo disposti ad aiutarti. Parlaci, per favore». Lei fa un gran respiro per prendere coraggio. «Io sono la figlia di Leonid e di Netti. Lui ti raccontò la loro storia. L'hai scritto nel tuo libro». Natalia è sul punto di dire qualcosa, ma il marito, con un gesto, la prega ancora di tacere. Bogdanov si sporge in avanti sulla scrivania. «Vuoi dirmi che Leonid andò davvero su Marte? Che le sue storie erano vere?» «Non Marte», lo corregge Danny. «Quello l'hai inventato tu. Si chiama Nakun». Il volto di Bogdanov pare intagliato nello schienale della sedia. Nessuno, a parte Volokh, conosce il nome di quel pianeta. Nella trilogia di Stella Rossa si parla sempre di Marte, la prova definitiva che la ragazza ha un legame con il vero Leonid. «Vai avanti, ti prego», la invita, non appena si ricorda di poter parlare. «Leonid tornò sulla Terra senza sapere che Netty era incinta. Lei è morta quando avevo 6 anni. È la verità che sono cresciuta in un istituto per l'infanzia. Non proprio un orfanotrofio, ma un luogo dove i bambini stanno tutti insieme. La malattia che dite non l'avete mai vista perché viene da un altro pianeta. Ma non è quella che mi fa stare male. Ce l'ho da quando ero piccola. Gli svenimenti sono per via della gravità che avete qui, molto pesante, e per l'aria, troppo umida. Non sono abituata. Bogdanov, distinto, impugna la stilografica e si avvicina a un foglio bianco. Quella finzione è talmente vera che meriterebbe di essere trascritta. Sono le storie dei suoi romanzi, ma riviste, ampliate e interpretate da un'ammiratrice, dal vivo e senza palcoscenico. Cos'altro può desiderare uno scrittore? «Questo tuo mondo, Nakun», domanda con il timore di spezzare l'incantesimo, «è proprio come l'ho descritto nei miei romanzi?» «Non proprio, ma ci somiglia», risponde la ragazza. «E sei venuta qui per cercare Leonid?» «Ho bisogno di lui. Di lui si fiderebbero. Ha visto il nostro mondo e il vostro. Può dire se avete intrapreso la strada giusta». «Perché è così importante che su Nakun lo sappiano?» domanda Bogdanov. Danny esita, come se pensasse che non possano crederle, come se parlare fosse inutile. «Lo hai scritto nel tuo libro. Alcuni di noi pensano che la società nakuniana deve imporre il suo modello ai mondi più arretrati». «E lo state facendo?» la incalza Bogdanov. La ragazza si asciuga le guance prima di rispondere. «La verità è che siamo troppi. Viviamo troppo a lungo, siamo troppo vecchi e abbiamo quasi esaurito le nostre risorse. Stiamo valutando la strategia migliore per espanderci nella vostra galassia, perché non si può fare il socialismo in un solo pianeta. Quello che abbiamo non ci basta più». Natalia porta una mano al viso. La follia di Danny le suggerisce una compassione profonda e quell'interrogatorio le pare un'umiliazione. Bogdanov invece lo prolungherebbe, senza cattiveria, per il puro gusto di vedere fin dove si spinge la fantasia di Danny. Fino a che punto il suo mondo risulta coerente, la sua mitomania è una scoperta affascinante. Magari è davvero un'ammiratrice della trilogia marziana, la più devota che abbia mai conosciuto. Non cerca un autografo, preferisce vivere tra le pagine dei suoi romanzi. «Continua», insiste lui. Lei questa volta non si fa pregare, ha deciso di fidarsi. «Non tutti pensano che sia giusto imporre il nostro modello. Alcuni ritengono sia meglio fratellizzare con le società più progredite degli altri mondi, aiutarci a vicenda. Lo chiamiamo interplanetarismo». «È quello che pensi tu?» Danny annuisce. «Io sono la prova vivente che un legame tra i mondi è possibile. Sono la figlia di un terrestre e di una nakuniana. Perfino il mio aspetto lo dice. Assomiglio molto più a voi che ai nakuniani. Ho chiesto io di partecipare alla missione. Dovevamo venire qui e scoprire se avevate fatto la rivoluzione, se avete intrapreso la strada giusta. In questo caso avremmo riportato su Nakun la buona notizia e chiuso la bocca a chi vorrebbe invadervi. Volevo ritrovare Leonid. Se potessi riportarlo su Nakun, a lui crederebbero, perché conosce entrambi i pianeti. Ma la missione è fallita. Entrati nell'atmosfera terrestre, abbiamo avuto una avaria e l'eteronave è precipitata. Sono l'unica sopravvissuta dell'equipaggio. Non posso mettermi in contatto con Nakun. Posso soltanto sperare che vengano a cercarmi». Bogdanov si alza e raggiunge la libreria. A colpo sicuro, preleva un volume e lo appoggia sulla scrivania, davanti a Danny, aperto sulla pagina giusta. Natalia sbircia il titolo che attraversa lo spazio bianco. Un marziano abbandonato sulla Terra. È il terzo episodio della trilogia, il poemetto del 1924, pubblicato in appendice alla seconda edizione di Stella Rossa. Racconta la vicenda di un alieno sopravvissuto allo schianto del suo veicolo sulla Terra. «Hai letto anche questo?» domanda suo marito. La ragazza legge il titolo, scorre i versi fino alla fine. «Non tornano a prenderlo?» «No», risponde lui. «Rimane con i terrestri, per aiutarli a edificare il socialismo».